La dignità. Tu sei pazzo e non lo sai. Chi te parla sa che tu sei pazzo e tu non lo sai. Chi dice che te va bene sa che tu sei pazzo, ma tu non lo sai. Passano l'anno, ti fate vecchia e ancora sei pazzo. Sei morto e sei morto da pazzo. E tu non l'hai mai saputo. La verità, che tu pazzo non sei mai stato. La vita è fatta di paura. Avete fatto i suoni? Sta gente che ti chiama pazzo, sti cose non l'ha mai provato. Sta gente è favosa, ha saputo solo parlare e sparlare. Non ti sono mai venuto a trovare e non ti sono mai venuto a cercare. Vivono nel loro mondo perfetto e non ne puoi disturbare. Tu hai amato la vita e tu non hai orecchie per sentire, l'occhio per vedere, la bocca per parlare. Non hai mai avuto niente e niente vai trovando. Almeno ti è rimasta la dignità.